tempo di sport. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari, Flavio Suardi in redazione, Peter Bescapè in regia per questo appuntamento che vi riserverà una pagina di palla a spicchi come ogni venerdì anche nel corso dell'estate, i mondiali di nuoto, subito però il segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. La vita è un gioco di centimetri. E così è il football. È vero, ha ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Certo. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, vai, coach. Che cosa volete fare? Vogliamo! Al Pacino, meravigliosamente doppiato da Giancarlo Giannini, in ogni maledetta domenica di Oliver Stone 1999, interpretava Tony D'Amato, allenatore di football americano, ispirato alla leggendaria figura di Vince Lombardi, 5 Super Bowl 20 negli anni 60 con Green Bay. Si parla tantissimo di campioni in questo periodo di mercato per tutti gli sport. Spesso i grandi campioni sono però anche in panchina e spesso i veri campioni sono quelli che devono gestirli. Benvenuto ad Andrea Zorzi da Belgrado, dove sta seguendo le finali di World League. In quanti tuoi colleghi o ex colleghi ti hanno raccontato di aver visto questo video per caricarsi prima di grandi appuntamenti, Andrea? Tante volte, tantissime volte. Io sono un po' troppo vecchio, nel senso che sono ancora legato a Rocky e dal buon Velasco. Con noi non si fece vedere il film, ma si parlò spesso degli occhi di tigre, che diventarono un po' famosi come slogan che Velasco utilizzava per chiedere a noi la massima concentrazione. Però da allora ci sono stati molti film che hanno toccato il tema principale del team building e lo spirito di squadra, e questo ovviamente che tu hai appena mandato è uno dei più famosi. Lo si usa nello sport, lo si usa molto anche nelle aziende. Io ti confesso, a volte sono un po' critico, un po' non sono convinto serva moltissimo, però non c'è dubbio che all'interno di questa parola c'è il grande segreto dello sport, che però deve essere applicato e sentito di volta in modo diverso. Perché non sei convinto che abbia un senso, un significato e una funzionalità effettive? Perché io sono convinto che lo spirito di squadra, la dipendenza dai propri compagni, il sentire cosa significa sacrificarsi e sentire cosa significa di essere aiutati dagli altri è qualcosa che si prova fisicamente, lo si può certamente intuire, però non è un messaggio che si può comunicare attraverso le parole, ma occorre proprio sentirlo, occorre esserlo. È un po' come essere un tifoso che guarda lo sport o essere un praticante che fa dello sport. Ovviamente non tutti hanno l'occasione e la fortuna per farlo ad altissimo livello, però sia molto pericolosa l'idea di confondere ciò che è un racconto, ciò che è una sorta di comunicazione emotiva rispetto al sentirlo fisicamente sulla propria pelle. E quindi, soprattutto per chi è allenatore di una grande squadra, occorre usare con un po' di attenzione, un po' di parsimonia, se no si corre un po' il rischio di non avere l'effetto voluto, cioè quello di non motivare i propri atleti, non fargli capire in fondo cosa significa essere disposti a sacrificarsi e cosa significa essere una squadra. In tutti gli sport, Andrea, di squadra ad alto livello, si è ormai entrati in una fase di globalizzazione estrema e ci sono allenatori che si trovano a lavorare in realtà diverse da quella in cui sono nati e in condizioni di confronto quotidiano con atleti che arrivano da ogni parte del mondo. In questi giorni, ad esempio, Walter Zeng, che è allenatore del Palermo, è allenato in Turchia, in Romania, in Arabia, dice: per me è molto importante comunque vedere un ragazzo georgiano al mattino e potergli dire buongiorno nella sua lingua, e fare lo stesso con i sudamericani. Tu hai avuto allenatori di varia provenienza e anche di mentalità molto diverse fra loro per le realtà da cui sono emersi. Che tipo di differenze hai notato? Beh, differenze straordinarie, un po' perché sono venuti momenti diversi della mia carriera. Io quindi ho iniziato con due allenatori polacchi, Bosek e Skiba, che mi hanno in qualche modo comunicato il loro sistema un po' militaresco, senza che questo fosse negativo, però grande attenzione, grande disciplina, sveglia al mattino molto presto, tutti in riga in linea all'inizio dell'allenamento, allenamento molto faticoso, molto duro, ma in cui c'era questo aspetto un po' militaresco. Poi sono passato a allenatori italiani, da Carmelo Pittera che era siciliano, ad altri del nord che hanno avuto modalità un po' diverse, e l'Italia rappresentava, come dire, un mix di tutte queste aspettative. Ho lavorato poi naturalmente con Giampaolo Montali, italianissimo, con Julio Velasco, con il quale ho ottenuto le più grandi vittorie. Devo dire che Velasco, secondo me, è riuscito più di altri a mixare queste diverse caratteristiche degli atleti italiani. Ho lavorato anche con Doug Beal per un paio d'anni a Milano. Doug Beal è statunitense, lui è veramente un genio della pallavolo, con cui gli Stati Uniti hanno vinto l'Olimpiade nel 1984 a Los Angeles, hanno rivinto grazie anche a lui, sì, le Olimpiadi di Los Angeles, hanno creato una grande storia nella pallavolo americana, però è anglosassone, è, come dire, cresciuto in un ambiente radicalmente diverso, e soprattutto Doug Beal ha avuto a che fare con atleti di origine americana che sono abbastanza diversi rispetto a quelli italiani, a quelli mediterranei in modo particolare. Nella mia esperienza a Milano, per esempio, è come se avessi un po' sentito la mancanza di ciò che Velasco invece aveva fatto alla perfezione, essere un po' il padre, un po' il padrone, quello che ti stimola. Gli americani sono abituati in genere a fare delle proposte e hanno a che fare con atleti che in modo molto molto responsabile aspettano, non devono essere continuamente stimolati. Gli si dice: ci arriviamo a una certa ora, ebbene i ragazzi hanno la responsabilità e l'autonomia per organizzarsi ed essere pronti. Con noi occorre fare un po' diverso, e se non lo fai è in qualche modo un limite. Ecco perché è importante che un allenatore abbia delle idee piuttosto chiare per fare in modo che la cultura e le abitudini non diventino un limite, ma in qualche modo un'opportunità in più per capire come fare. Dal buongiorno di Zenga, ma sapere anche che alcune frasi, alcune modalità hanno effetto in certe culture, ma sono totalmente sconosciute o indifferenti ad altre persone che vengono da ambienti radicalmente diversi. A questo proposito, c'è un grandissimo allenatore del basket che ora si appresta a una nuova esperienza latina, dopo aver allenato per anni il CSKA di Mosca e Ettore Messina, e Bagnoli, Daniele Bagnoli, che è invece in questo momento alla guida della Russia nelle finali di World League e ha già vissuto anche un'esperienza di club nella pallavolo. Secondo quanto lui ti ha detto nell'intervista che poi hai pubblicato sul tuo blog all'interno del sito della FIVB, la Federazione Internazionale del Volley, quali sono le caratteristiche più interessanti del suo confronto con la realtà russa? Ma innanzitutto l'ambiente generale è un po' complicato. Diciamo che sono, uso un eufemismo, patriottici nella pallavolo, i russi, perché per anni sono stati coloro che hanno dominato la scena a livello mondiale. Poi i russi sono proprio tradizionalmente un popolo che ha una buona opinione di se stessi, nella pallavolo in modo particolare, quindi insomma il fatto di affidare la loro nazionale a uno straniero non è esattamente una cosa a cui sono abituati. E quindi, nonostante lo abbiano fatto perché hanno la speranza di tornare a vincere a livello mondiale e ne hanno anche tecnicamente le possibilità, le critiche sono sempre dietro l'angolo. Daniele però si è abituato a questo atteggiamento nei 2 anni in cui ha allenato la Dinamo Mosca. Ma per quanto riguarda le modalità in allenamento, mi ha spiegato più volte che la cosa che lo ha sorpreso è che i russi sono dei grandissimi lavoratori, sono fisicamente degli atleti inarrivabili, sono un po' in difficoltà a volte quando l'esercizio è psicologicamente molto sfidante, quando occorre avere moltissima attenzione, ed è per questo che lui molte volte, per evitare di rovinare l'atmosfera e la difficoltà, tende a è ovvio. Io mi sono arreso convinto. Non sento più Andrea Zordi, penso che ci sia qualche... Pronto Andrea, ci senti bene? Eccoci. Sì. Dicevi di Bagnoli, sì. Lui non è che si è arreso a questa diversità culturale dei russi, perché è convinto che la capacità di stare concentrati per lungo tempo sia decisiva, sì. Però non può cambiare troppo in fretta questa realtà, quindi pian piano sta cercando di trovare il modo per avere la risposta corretta. In questi giorni a Belgrado sembra ottenere buoni risultati, perché abbiamo visto, almeno io ho visto, una Russia giocare in modo un po' diverso rispetto al passato, non affidandosi solo alla forza, ma anche all'atteggiamento giusto e con molta intelligenza. Naturalmente ci sono già alcuni vostri interventi al 349-238-6666, ci sarà spazio anche per quelli telefonici all'800-2400-24, stiamo trattando con Andrea Zordi all'interno di questa edizione ampia di Il Segno di Zorro, la rubrica che cura settimanalmente su Radio 24 in A Tempo di Sport, il tema della gestione del gruppo, delle squadre di campioni a livello di club, a livello di nazionali, soprattutto in una fase di globalizzazione, di confronto culturale sempre più spinta. C'è un tema che ha spesso diviso, esaltando la rivalità personale e professionale tra i due, Velasco e Montali. Ricordo che Velasco raccontava nei suoi convegni, che da tempo tiene anche con le aziende, io non farò mai, non ho mai fatto, non vorrei mai che fosse, che accadesse la doccia con i miei giocatori, non sarò mai nello spogliatoio con loro, perché è giusto che loro abbiano un momento in cui devono anche sfogarsi e possono anche insultarmi, devono avere questo tipo di libertà. Altri allenatori, come Carlo Ancelotti ad esempio, nella sua biografia dice: di sicuro io non sono un padre, ma sono un amico e sono uno psicologo dei giocatori, il gruppo lo gestisci a seconda di come sei, a me piace parlare con i giocatori e non urlare. Tu su che linea ti collochi, qual è il tuo contributo a questa analisi, Andrea? Io richiamerei con molto piacere il vecchio, vecchissimo detto di Socrate: conosci te stesso. Questo sia il primo passo da fare per un allenatore: riuscire a capire quali sono le tue caratteristiche vincenti, non per restare ancorato alla tua modalità dimenticando l'importanza degli altri. Ma Ancelotti non potrà mai fare cappello, se questo mi pare evidente, esattamente come Velasco ha alcune caratteristiche. Quindi l'importante è riuscire a capire quali siano le proprie modalità, mediandole rispetto all'ambiente nel quale ci si trova, cercando di essere abili, elastici, un po' istintivi anche nel cogliere gli aspetti positivi, ma poi ognuno deve trovare la sua strada. Si è parlato spesso di Phil Jackson, che è un grande allenatore, sì, che ha vinto poi più di tutti nell'NBA. Tra l'altro a me piace moltissimo, perché ha questo suo aspetto filosofico che io trovo molto molto interessante. Ma Phil Jackson ha trovato la sua strada. Lui può fare alcune cose che, se dovessero fare altri allenatori, diventerebbero dei problemi gravissimi. Quindi non c'è una ricetta, non c'è una modalità che garantisca successo. Ci sono alcune regole che vanno rispettate, innanzitutto una certa spontaneità e coerenza, ma la coerenza stessa deve essere applicata al contesto in cui si è, ed è qui che si svolge la battaglia. La differenza è essere coerenti senza essere integralisti e senza essere troppo relativisti. Questa è la vera grande battaglia, ed è per quello che è molto interessante e anche molto faticoso fare l'allenatore. Sì. Campioni in campo e campioni anche in panchina, questo il tema introduttivo in Il Segno di Zorro con Andrea Zorzi. Telefonate all'800-2400-24, messaggi sms al 349-238-6666. Abbiamo introdotto il tema con il discorso celeberrimo di Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica di Oliver Stone, film del 1999 sulle vicende di un club di una franchigia del NFL di football americano. Andrea, il personaggio che ha calamitato l'attenzione su di sé per la sua capacità di gestire il gruppo e i media nel calcio italiano nell'ultimo anno è stato José Mourinho. Quando lui arrivò in Italia, Giampaolo Montali, che già un anno fa era all'interno del consiglio di amministrazione della Juventus, disse: ho il sospetto e il timore che l'Inter abbia trovato ciò che le mancava, ovvero un personaggio che sappia gestire gli aspetti motivazionali dei suoi giocatori al meglio, perché nello sport di alto livello le motivazioni sono quelle che fanno la differenza. Dal punto di vista tecnico e tattico c'è poco da insegnare. È un discorso che Montali ha preso dalla pallavolo in maniera letterale, l'ha trasposto sul calcio, o secondo te davvero ad alto livello nei vari sport sono le motivazioni a fare la differenza principale? Ovviamente senza, diciamo che le motivazioni sono la parte principale, come se fossero un po' il catalizzatore di una reazione chimica. Se non c'è l'atteggiamento giusto non si va da nessuna parte. È però altrettanto evidente che senza le qualità tecniche e fondamentali altrettanto non si combina nulla di buono. Quindi diamo pure per scontato, anche se non è fino in fondo, che atleti che sono in nazionale, in squadre di alto livello, debbono essere ben dotati delle qualità tecniche. A quel punto diventa molto importante gestire la parte emotiva. In alcuni sport, quelli molto molto popolari, c'è il problema della gestione di quella che è l'ambiente esterno, di quella che è la stampa, di quella che è la televisione, che naturalmente ha un grandissimo influenza anche all'interno. Quindi ci sono alcuni sport che possono in qualche modo concentrare le energie sul lavoro del gruppo e sulla tecnica. Altri sport, come il calcio, ma non solo, che devono fare i conti anche con le situazioni esterne. Ecco perché è più complicato, ecco perché nel calcio dedicare molta energia e molta attenzione alla gestione anche dei mass media è un aspetto decisivo, perché sennò si corre il rischio di perdere anche del valore in campo. Io, restando un atleta che mi piace uno sport conosciuto ma non troppo, sono, devo dire, più legato alla parte prettamente tecnica. Mi piace, sì, l'idea che ci sia uno spazio in palestra chiuso solo ai giocatori, però mi rendo conto che lo sport è diventato uno show, un business, e quindi vorrei conti anche con ciò che veramente porta i soldi, e spesso questa è la televisione. Per chiudere, un'altra cosa di cui si è detto spesso nel corso di questa stagione che si è chiusa e che ha portato Mourinho in Italia: lui è molto bravo a calamitare su di sé le attenzioni, e questo permette ai suoi giocatori di non sentire tutte le pressioni che in altro modo sarebbero distribuite appunto sulla squadra e non recapitate tutte all'indirizzo della guida tecnica del club. È effettivamente così? Un giocatore sente in alcuni momenti, in alcune fasi della stagione, quelle più delicate e più competitive, anche la necessità di scaricare la pressione, oppure che questa pressione venga accolta appunto dal suo allenatore? Sì, ci sono alcuni momenti in cui l'atleta è in difficoltà e meno problemi ha da gestire, più contento è e più in fretta esce dal momento di crisi. In questo senso l'atteggiamento di Mourinho potrebbe essere estremamente positivo. Tra l'altro, occorre aggiungere che Mourinho credo non possa fare altrimenti, perché non è che fa un grande sforzo a tirare su di sé l'attenzione, lo fa con molta naturalezza, con un certo istinto. Quindi anche lui ha trovato bene la sua strada e conosce piuttosto bene le sue caratteristiche. Però non dimentichiamo che c'è anche l'altro aspetto, e cioè quello che se poi l'allenatore Mourinho, nel caso specifico, è sempre protagonista, sempre in prima linea, potrebbe creare, come dire, un po' di dissapore, un po' di dispiacere da parte degli atleti, che finiscono sempre per essere in secondo piano. Quindi ancora una volta si tratta di trovare il giusto equilibrio. Ovviamente Mourinho dovrà fare più o meno quello che è capace di fare, cioè chiacchierare, attirare l'attenzione, e dovrà fare in modo che l'equilibrio con la squadra rimanga il più equilibrato possibile. Per chiudere, Andrea, ci sono anche un paio di messaggi che ti riguardano. C'è chi dice che non ti conosceva così filosofo, ma comunque sei sempre un grande, e c'è chi ti chiede un commento su Villa Cortese. Ne ha promosse ne uno che ha fatto un po' il Real Madrid nel volley femminile, acquistando campionesse ovunque. Qui spaziamo un po', eh. Con le dovute proporzioni parliamo del Villa Cortese come Real Madrid. E quindi no, sono molto felice, perché è una realtà molto particolare che rappresenta, secondo me, la pallavolo, che alla fine è rimasto uno sport che io amo tantissimo, ma che in qualche modo ha uno spazio non nelle metropoli ma nelle piccole e medie città. Quindi sono molto felice che nella pallavolo femminile sia arrivata anche Villa Cortese. Per quanto riguarda il fatto di essere filosofo, no, non credo di esserlo per nulla. Devo dire che da un po' di anni, facendo giornalista, mi capita di dover, come dire, relazionarmi con i volentieri, con qualche ricerca, e qualche volta i termini sono quelli, però io sono molto, ma molto, forse più che mai legato alla realtà, quindi adoro guardare i risultati, adoro vedere cosa succede, poi per scrivere non mi posso limitare a mettere i punteggi, ma devo cercare di inquadrare la situazione in modo un po' più ampio, quindi questa è la parte che mi piace di più e che devo dire mi fa piacere continuare a fare. Senti, l'ultimissimo spunto che non abbiamo affrontato e che mi piace comunque sottoporti per avere la tua impressione, è effettivamente vero che dopo un certo periodo il rapporto tra allenatore e squadra che l'allenatore sta guidando si logora, comunque è portato ad essere un po' troppo ravvicinato per quelle che sono poi le richieste motivazionali che l'allenatore deve fare di anno in anno, di stagione in stagione ai suoi. Penso a Guardiola, allenatore del Barcellona, che ha detto: noi abbiamo bisogno anche di rinnovarci dal punto di vista delle sensazioni, del feeling, abbiamo vinto tutto l'anno scorso, il primo anno in cui ero in panchina, bisogna cambiare qualcosa, e da qui poi l'affare che porterà Ibrahimovic a Barcellona. È effettivamente così, è necessario cambiare sempre qualcosa per mantenere alta l'attenzione? Io credo che i cicli sportivi abbiano bisogno di essere rinnovati, perché le energie che si impegnano sono veramente tante e a volte devono arrivare in modo molto diretto dalla pancia. Quindi si può ogni tanto trovare una soluzione che venga dalla testa, sapere che l'obiettivo è così importante, superare momenti di difficoltà relazionale, ma nello sport, se non c'è una sorta di istinto, di un piacere profondo a giocare, a stare insieme, si fa un po' di fatica. Ecco perché ritengo che, parlo di nazionale in questo caso, un ciclo olimpico sia già un grande risultato. Ci sono vari esempi di doppi cicli olimpici circa 8 anni, ma secondo me dopo 8 anni è veramente il caso di prendere strade diverse, perché si è cresciuti molti, ci si conosce molto e sono finite un po' le possibilità di andare a raccogliere le energie profonde degli atleti, e quindi è necessario cambiare. In quegli 8 anni qualche piccolo aggiustamento va naturalmente fatto. Bene, grazie davvero ad Andrea Zorzi, buon proseguimento a Belgrado e buona chiusura di World League. A presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Andrea Zorzi per questa lunga e piacevole chiacchierata su temi legati alla gestione delle squadre, dei gruppi e dei grandi club, delle grandi nazionali, non solo di volley ma anche di basket e di calcio. Naturalmente ci sono messaggi su questo ma anche su altro, il calciomercato come sempre che tiene viva la vostra attenzione al 349-238-6666, la telefonata, il numero verde 800-24-00-24. C'è un messaggio di Francesco da Milano che dice: ho letto il libro di Gigi Garanzini che parla di Nereo Rocco, sono rimasto colpito dal rapporto empatico che costruiva con i suoi giocatori, coinvolgendoli anche in attività goliardiche, secondo me irraggiungibile, è vero per quei tempi, poi è chiaro che i tempi sono cambiati, si parla di 40 anni fa, abbondantemente di 40 anni fa, è chiaro che poi i metodi sono cambiati, si sono sviluppati altri ruoli, altre figure, ora gli staff sono molto più allargati e meno accentratori sono gli allenatori di quanto fossero prima, comunque devono delegare alcune delle competenze, sono gruppi più ampi quelli che stanno gestendo, quindi è una considerazione che per quell'epoca, come si poteva fare per Herrera all'Inter, ha un senso molto profondo. Poi è chiaro che in questo momento specifico, in questa era calcistica, quel tipo di gestione non sarebbe sufficiente, non sarebbe possibile, ed è necessario che ci sia un appoggio da parte del club, anche i metodi dell'allenatore. Un'ansa che è particolarmente di attualità, di pochi minuti fa: Steven Gerrard è stato assolto dall'accusa di rissa in merito all'incidente scoppiato all'interno del lounge in di Southport lo scorso 29 dicembre. Dopo l'udienza di ieri e la deposizione del capitano del Liverpool, che si è sempre dichiarato innocente, oggi la Liverpool Crown Court ha prosciolto il giocatore, che già domani potrà raggiungere i suoi compagni in un'amichevole a Singapore. Gerrard, assieme a 5 amici, era stato inizialmente accusato di aggressione aggravata e rissa in seguito alla denuncia presentata da Marcus McGee, il DJ del locale dove era scoppiata la rissa. Ne aveva fatto le spese lo stesso DJ, ricoverato in ospedale con contusioni varie e un dente rotto. Lo scorso marzo era caduto il primo capo di imputazione ai danni di Gerrard, oggi anche il secondo. Ieri, nel corso della sua deposizione, Gerrard si era detto molto dispiaciuto per l'incidente, giustificando la sua reazione violenta come legittima difesa. Ci sono anche un paio di notizie di basket, ad esempio l'ingaggio del georgiano Maikoshvili, ex Treviso, da parte di Cantù, e la firma dell'accordo per la cessione all'albanese Taci da parte della famiglia Menarini per la quota di maggioranza, l'80% del Bologna. Poi ancora mondiale di nuoto, di cui parleremo tra un po', parleremo anche di basket, mondiale di nuoto con un episodio non particolarmente piacevole, è stato fermato un tecnico della nazionale australiana con farmaci dopanti, un medico della nazionale australiana. Bentornati in A Tempo di Sport con alcune notizie di mercato di cui avevamo dato conto poco fa, in particolare il passaggio ufficiale dell'80% delle quote del Bologna Calcio all'albanese, al petroliere albanese Resart Taci, e poi le dichiarazioni dei vari agenti di Eto'o e Ibrahimovic. Soprattutto nella giornata di ieri ci sono state delle schiarite interessanti, e mi ha colpito molto una frase che ho ascoltato nello speciale calciomercato di Sky Sport di Mino Raiola, l'agente di Ibrahimovic, che ha detto: l'Inter ci ha chiesto di stare tranquillo, di chiudere questa trattativa con Eto'o, perché la Porta ha dichiarato molte volte che uno non aveva niente da fare con l'altro e lui avesse preso anche Zlatan senza l'inserimento di Eto'o. Poi Raiola, da uomo molto pratico qual è, ha anche detto: ora ci andiamo a sedere al tavolo a Barcellona, e in questi casi è sempre vantaggioso sedersi per ultimi, perché evidentemente si ha la possibilità di determinare buona parte della chiusura, della conclusione della trattativa. Telefonate all'800 24 00 24, messaggi al 349 238 6666. Uno di Alex Dacomo che dice: si sente parlare di Cáceres alla Juve, difensore uruguaiano del Barcellona. Dice: secondo lei è così forte come dicono? Si può paragonare a un difensore italiano? Beh, paragoni con difensori italiani non sono semplici, perché in questo momento difensori italiani bravi ce ne sono pochi in giro. Lui è un giocatore che ha delle buone qualità. Quando era in Uruguay era considerato estremamente promettente, il Barcellona l'ha pagato moltissimo a Villarreal, però poi alla fine non ha giocato molto l'anno scorso. Spesso Guardiola ha anche arretrato Touré in difesa quando mancava un difensore centrale, considerando che Guardiola ha dimostrato di avere delle ottime qualità, come nel caso dei Leb che ha escluso. Chiaramente qualche dubbio c'è, senza per questo dire che inevitabilmente un giocatore che fallisce o non ha spazio in una grande squadra, in un tipo di calcio in Europa, poi automaticamente non troverà spazio e qualità in altri club, in altri campionati. Ci sono naturalmente anche altri temi. Uno è quello di De Laurentiis, che ha scaricato Lavezzi. Avete sentito ieri le sue dichiarazioni, ha detto: non è Maradona, ci stiamo organizzando per fare a meno di lui. È chiaro che in questo caso poi si incrociano anche delle caratteristiche e delle gestioni dei rapporti tra club e giocatori e i loro procuratori, che sono molto importanti, andrebbero poi approfondite e probabilmente regolamentate, nel senso che De Laurentiis e i presenti hanno ragione quando dicono che il contratto viene sottoscritto e in quel momento poi non è logico pensare che debba essere rivisitato quotidianamente quando un giocatore si esprime su buoni livelli e su sua richiesta. Il primo ascoltatore è Piero dalla provincia di Grosseto. Buon pomeriggio, prego. Piero, buon pomeriggio, prego. Pronto? Sì. No, non mi chiamo Pietro, mi chiamo Davide. Prego, chiedo scusa. No, non si offende, era segnato così sul display, non volevo. No, perché aspettavo, diciamo, cioè lei che chiamava Piero, ma non so io, quindi ecco perché stavo zitto. Prego, dica pure. Comunque, volevo chiederle, cioè, io sinceramente tra Rossi, cioè Ballardini, per quanto diciamo il... discorso su Lazio, sinceramente non noto nessuna differenza, e la mia preoccupazione che, visto e considerato che la Lazio ha gli stessi giocatori di l'anno scorso e di due anni fa, dove Ballardini deve stare attento a non commettere gli stessi errori diciamo che ha fatto Rossi in queste due stagioni, dove sinceramente si è visto un calcio per la Lazio pessimo, a parte il discorso della Coppa Italia. Ecco, vorrei soltanto sapere dove il nuovo mister dovrà stare attento per non ripetere diciamo gli errori del suo... Ma quali errori secondo lei, per capire? Beh, gli errori di gioco, le sconfitte, la pessima e la scarsa concentrazione in campo, perché queste sono cose che l'anno scorso forse in pochi hanno riportato, perché io diciamo ascoltando spesso Radio di Roma, sinceramente non lo so, cioè come se una protezione che intorno a questa squadra da parte diciamo degli inviati che sono sul posto in ritiro e tutto quanto, cioè che commentano del pianeta Lazio, che sinceramente mi dà più di qualche sospetto. Questo è un discorso ulteriore, dietrologia pura, e quindi non andiamo in questa direzione. Sicuramente la Lazio aveva delle carenze di equilibrio l'anno scorso e anche in precedenza. Lo si è visto per il fatto che ha avuto delle buone serie di risultati seguite da altre serie di risultati estremamente negative, con molti gol subiti e concessi spesso in situazioni tattiche di grande squilibrio, perché non arrivava la protezione necessaria ai difensori, perché le qualità dei difensori esterni e ancor più centrali erano e sono comunque limitate. Questo è un serio problema ed è uno di quelli che la Lazio sul piano del mercato anche deve affrontare, perché dopo la rottura con Cribari la Lazio ha avuto delle difficoltà ancora più chiare. Anche nella partita di San Siro contro l'Inter fu evidente la carenza in alcune situazioni e in alcuni momenti sul piano proprio tecnico e del confronto con i livelli del nostro campionato. Ballardini è differente da Rossi per alcuni aspetti, per altri è simile, per il modo molto pratico e poco propenso al sorriso di affrontare le cose. Sono sempre convinto che per realtà come quelle di Roma e di Napoli e anche di Palermo probabilmente sia meglio avere una figura così, perché già le piazze sono molto brave a esaltarsi, entusiasmarsi da sole, e vediamo come saprà gestire, soprattutto se dovrà farlo, se Pandev rimarrà, Zárate, Pandev e Rocchi, perché l'anno scorso questo è stato il vero limite di Delio Rossi, forse anche determinato dal fatto che lui non conosceva Zárate quando l'hanno preso e dal fatto che i tre giocatori sono un po' simili e quindi non sempre facili da integrare. Andrea da Bologna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio dottor Callegari, sempre un piacere parlare con lei. Dunque io volevo chiederle, adesso con l'acquisto di Eto'o da parte dell'Inter, non si pone un ulteriore problema a Mourinho, oltre quello di dare un gioco, l'eventuale scelta sulla punta centrale, visto che comunque anche Eto'o io la ritengo una punta centrale, quindi come dire la convivenza con Milito, grazie. Sì. Sì, beh, ne abbiamo parlato con un paio di analisti che hanno dato letture diverse. Questo già dà l'idea di come non sia semplice inquadrare il calcio in assoluto, le caratteristiche tecniche e tattiche dei giocatori. Nel senso che Aldo Serena, ad esempio, ha detto: secondo me è una coppia che si può integrare benissimo, perché poi Eto'o anche nella finale di Champions a Roma contro il Manchester ha giocato benissimo partendo da esterno con Messi tra i due centrali difensivi del Manchester, perché è un giocatore che si muove molto, perché Milito è molto intelligente. Amedeo Carboni l'altro giorno diceva: ho qualche dubbio in più, perché sono giocatori che vanno negli spazi allo stesso modo, si muovono allo stesso modo, amano partire centralmente in modo molto simile. È vero tutto questo, è vero che spesso giocheranno insieme, è anche vero però che per noi operatori del settore, media, tifosi e altri, è molto gustoso parlare di formazioni tipo, però ormai bisogna ragionare anche nell'ottica di una stagione, di una gestione di impegni. Eto'o dovrebbe avere la Coppa d'Africa anche all'inizio dell'anno prossimo, solare se non sbaglio, quindi per un periodo non ci sarà, quindi ci saranno momenti anche in cui Milito sarà un'alternativa e probabilmente Milito sarà più utile in campionato inizialmente rispetto a Eto'o, e avrà modo di abituarsi alla Champions gradualmente, non avendola mai disputata, non avendo giocato praticamente mai neppure una competizione ufficiale con la sua nazionale, se non una parte della Coppa America del 2007. Ora palla a spicchi. palla spicchi. Flavio Suardi in redazione mi ha raggiunto per affrontare, come quasi ogni venerdì anche nel corso dell'estate, diversi temi legati al basket, partendo dall'attualità. Flavio, che ci regala anche in questo caso notizie di mercato, ma non solo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, direi, l'hai anticipato anche tu prima, il grande colpo del mercato della pallacanestro, questo è quello di oggi, che è stato concretizzato da Siena, che ha ingaggiato David Hawkins che quindi lascia Milano, approda alla Montepaschi, che a sua volta aveva ceduto Caucenas al Real Madrid di Ettore Messina. È un grandissimo colpo questo, Massimo, di mercato, perché la Montepaschi pian piano sta andando a rinnovare un'ossatura che comunque è sempre stata abbastanza stabile in questi anni, va a rinnovarla con un giocatore di 27 anni che è nel pieno della sua carriera, che può ancora avere margini di miglioramento, privandosi di un giocatore che di anni ne ha 32, ancora certamente nel pieno della sua carriera, però tutto sommato Siena ha fatto un grande affare, e anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. Hawkins è un giocatore che piace molto all'allenatore, che è Pianigiani, e dunque arriva alla Montepaschi che, novità anche questa di oggi, potrebbe poi alla fine riuscire a trattenere anche McIntyre, che è il grande oggetto del desiderio di diverse squadre, tra cui l'Olympiakos di Atene, che voleva appunto prendere McIntyre. La verità è che McIntyre ha un buyout altissimo che si aggira attorno ai 2 milioni di dollari. L'Olympiakos aveva offerto Lingrir come parziale contropartita per andare a colmare questo buyout. Siena però mostra di non gradire questa soluzione, dunque McIntyre potrebbe rimanere. Anche Lavrinovic, scusa, adesso concludo il discorso su Siena. Lavrinovic, che è anche uno dei giocatori che ha fatto davvero moltissimo questa stagione a Siena, è stato richiesto dal Barcellona, ma Siena non intende privarsene. Hawkins, dicono a Siena, potrebbe farci fare il salto di qualità per l'Eurolega. È una speranza fondata? Assolutamente sì, nel senso che Siena ormai, dopo anni e anni di dominio in Italia, deve assolutamente cercare di conquistare una dimensione anche dal punto di vista europeo. Non dimentichiamoci che 2 anni fa praticamente Siena ha buttato via la finale di Eurolega in quella scellerata semifinale contro il Maccabi, quando era avanti di diversi punti, e poi si è fatta recuperare e superare dagli israeliani. L'anno scorso non è riuscito l'approdo alle Final Four a causa di un incrocio abbastanza proibitivo con il Panathinaikos, che poi ha vinto il torneo. Quindi Siena quest'anno è chiamata a dare continuità ai suoi risultati anche dal punto di vista europeo, e non è un assolutamente non è un mistero che la dirigenza punti a mettere in bacheca anche un trofeo a livello europeo, per concretizzare e per dare lustro a questo dominio italiano negli ultimi anni. Palla spicchi con Flavio Suardi, con i movimenti di Siena, che ha acquisito Hawkins da Milano. Che ne sarà ora della formazione metropolitana, del club metropolitano milanese? Questo è una buona domanda, nel senso che Hawkins comunque è stato il giocatore più importante di questa Armani dell'ultima stagione, che si è dimostrata peraltro l'avversario più vicino a Siena, visto che è riuscito ad andare a giocarsi la finale. Sicuramente non resta Thomas a Milano. Thomas è dato vicino a Varese, dove ritrova il suo ex allenatore Pillastrini, che l'ha avuto a Montegranaro. Tra l'altro Varese vorrebbe ricomporre la coppia tra Thomas e Slay, che ha fatto anche appunto le fortune di Montegranaro. Cerca una guardia dalle caratteristiche abbastanza simili a quelle di Hawkins Milano, però un viaggio negli Stati Uniti, che si è concluso proprio qualche giorno fa, pare non abbia dato ancora non abbia partorito ancora il nome giusto. Il budget non è male per questo tipo di giocatore, quindi Milano si può anche permettere di aspettare. Difficile, deve però anche trovare una collocazione per Vitali, per esempio, che è stato il grande gioiello del mercato dell'anno scorso. Pare però che invece a Milano potrebbero anche decidere di privarsene, mandandolo un anno in parcheggio in qualche altra squadra, per vedere di farlo poi ritornare con un anno in più di esperienza sulle spalle, insomma. Ci sono anche casi un po' meno piacevoli, meno legati a questioni tecniche, ad esempio quello che porta la Fortitudo lontana dal basket professionistico. Assolutamente sì, la Fortitudo è stata esclusa la settimana scorsa dal campionato di Lega 2 e dovrebbe ripartire dalla A Dilettanti, che è la vecchia B d'eccellenza, e dunque esce dal panorama professionistico italiano. Una società gloriosa, una società che ha giocato tantissime finali scudetto negli ultimi anni, una società che però al tempo stesso l'anno scorso non aveva navigava in acque tranquille dal punto di vista proprio della situazione finanziaria, tant'è che poi è stata esclusa anche da questo campionato. Questo potrebbe ha già liberato alcuni giocatori, perché è chiaro che chi aveva il contratto con la Fortitudo per rimanere in A2 adesso può voler non giocare nell'A dilettanti e quindi andare a cercare altre sistemazioni. Pezzo pregiato di questo mercato è Mancinelli, che adesso è impegnato con la nazionale, che dovrà giocarsi l'accesso nel girone di ripescaggio ai prossimi europei. Mancinelli che dovrebbe essere destinato a Siena, perché pare proprio che Siena sia l'unica squadra a poterselo permettere, sia dal punto di vista economico che soprattutto dal punto di vista di caratteristiche. C'era stato un abboccamento con Milano per Mancinelli, però la trattativa sembra naufragata. E poi c'è anche il caso Massimo di Rieti, che l'anno scorso è stata una delle squadre più in difficoltà, è stata addirittura una storia anche commovente per certi versi, quella di Rieti, che ha finito il campionato con 6 giocatori, è riuscita a salvarsi e si iscriverà a questo campionato però giocando a Napoli. Quindi c'è stato questo trasferimento di sede da Rieti a Napoli con la federazione che ha dato l'autorizzazione per un anno a questo trasferimento. Vedremo cosa succederà, speriamo che la fine non sia quella dell'anno scorso. Indiziato numero uno ad allenare questa squadra sembra Attilio Caia, che ex allenatore di Milano, che potrebbe appunto prendere questa panchina, visto che Lino Lardo, l'ex allenatore di Rieti, adesso è l'attuale allenatore della Virtus Bologna. Senti, approfitto della tua competenza nel basket italiano e anche americano per avere un tuo contributo sulla base di quanto anche in questi anni hanno raccontato i nostri azzurri che sono andati a giocare nell'NBA, il tipo di confronto che hanno avuto con i metodi di lavoro americani, di gestione del gruppo e delle squadre con i coach che li hanno allenati in NBA, penso a Bargnani, Bellinelli e altri. Ma sicuramente si tratta di una pallacanestro diversa, quella americana rispetto a quella non solo italiana ma europea in genere. L'NBA gioca 82 partite all'anno, che è praticamente, non dico il doppio ma quasi, rispetto al numero di partite che gioca una squadra italiana e una squadra italiana che fa anche le coppe, e quindi c'è proprio un approccio al lavoro che è diverso. Ma credo che questo si inserisca nel discorso di una mentalità, di una cultura sportiva differente degli Stati Uniti rispetto al nostro paese. Non c'è questa continua pressione per i risultati, insomma tu sai bene che chi va a vedere le partite di pallacanestro americano ci va per godersi uno spettacolo. Le partite sono lunghissime, durano tantissimo, tant'è che addirittura ci sono dei time out richiesti dalle televisioni, quindi è puro spettacolo, esattamente come lo è il baseball e come lo è il football americano. Dunque anche i metodi di lavoro sono diversi. Non è che in America non si lavori, si lavora in maniera diversa in funzione della partita e soprattutto con grande attenzione all'aspetto fisico. Bargnani e Bellinelli sono partiti per l'America con un certo tipo di struttura fisica, sono tornati assai irrobustiti dal punto di vista proprio della massa muscolare, perché se a livello di NBA non reggi l'impatto fisico, allora non giochi mai. Grazie Flavio, ci ritroviamo a voi, presto. A presto. Grazie a Flavio Suardi per il contributo settimanale in Pallaspicchi. Con altre notizie di agenzie che arrivano, ci sono anche delle considerazioni ulteriori sulla trattativa che sta per portare Ibrahimovic a Barcellona. Ormai siamo davvero alla chiusura di questa vicenda, che ha una evoluzione quasi seriale, nel senso che si parla di questo da giorni, però pur essendo qualcosa di dato per fatto e per certo, ci sono tanti dettagli, e come una serie TV ogni giorno si aspetta di tornare indietro con il nastro, di rivivere le puntate precedenti e di aggiornare poi con un minimo dettaglio in più tutta la vicenda. Anche qui siamo ormai vicini a un discorso di gestione spettacolare, come accade negli Stati Uniti su altri temi, su altri ambiti per gli sport americani. Vi dicevo questa frase di Raiola, che dice forse la trattativa è nata un anno fa, ma a differenza di quella per Maxwell, che è assistito dallo stesso agente e che aveva avuto problemi con Mourinho, che lo aveva accusato soprattutto dopo il KO di Bergamo contro l'Atalanta a gennaio, non è nata da un problema. Ibrahimovic voleva andare a Barcellona, ma se non fosse stato possibile sarebbe comunque stato contento di restare all'Inter. Evidentemente è una frase che, per come Ibrahimovic si è comportato in questi anni, in tutti i suoi club, in tutti i momenti, è realistica, è molto cinica, è molto dura forse anche per chi segue le vicende con un'attenzione un po' più affettuosa e meno tecnica, però è così. Ibrahimovic sta bene un po' dappertutto e si fa andare bene nella realtà a seconda di quelle che poi sono le prospettive, di come lui riesce a imporre il suo modo di essere, di come riesce a imporre anche la sua superiorità fisica e tecnica. C'è un ascoltatore che si firma Michele da Padova e ritiene questo come il più grande affare fatto da Moratti in tutti gli anni all'Inter, naturalmente affare tecnico, ma ancor prima sicuramente economico, se lo sarà anche sul piano tecnico. Vedremo ora invece cosa ci sta per raccontare Dario Ricci con i mondiali di nuoto. Nissan City Cars, welcome to simplicity, vi presenta Roma 2009, mondiali di nuoto. Buon pomeriggio, Dario Ricci. Buon pomeriggio, Massimo, dal Foro Italico. Dunque, quali sono le aspettative per questa giornata? In particolare l'attenzione su Tania Cagnotto e Francesca Dall'Apea. Alle 15.45 finale dal trampolino dei 3 metri sincro. Eh sì, hai detto bene, proprio sulle azzurre si concentrano le attenzioni dei tifosi italiani. Entrate in finale con il secondo punteggio alle spalle delle campionesse in carica, le inarrivabili Guo Jingjin e Wu Mingxia, le cinesi, le azzurre fanno sognare, ma bisognerà lottare per il podio contro Stati Uniti, Australia e Canada e Russia, insomma i pretendenti ai primi tre posti qua a Roma, o meglio all'argento e al bronzo, perché Guo Jingjin e Wu Mingxia sono veramente di fatto inarrivabili, non mancano. E poi la grande attenzione è soprattutto sullo sbarco degli americani a Roma, e in questo caso facciamo riferimento però fortunatamente solo ai nuotatori, perché proprio in contemporanea con la finale del sincro donne del trampolino dei 3 metri, conferenza stampa dello squadrone americano, Aaron Persol, Ryan Lochte e Dana Torres, e poi da solo Michael Phelps, perché il re, l'imperatore, il candidato imperatore non può che avere la scena tutta per sé, no Massimo? Certo che sì. Torniamo un attimo su Tania Cagnotto e Francesca Dall'Apea e sentiamo il contributo che tu hai raccolto in attesa di questa finale. Abbiamo fatto quasi il nostro record, però abbiamo ancora un po' da dare. Con la testa libera, una medaglia al collo, si salta con più piacere, in modo un po' più leggero, no Tania? Quello sicuramente, però adesso ce n'è un'altra gara, una giornata nuova e si inizia da capo. Francesca, questa coppia sembra confermarsi ad alto livello, sembra funzionare alla grande. Sì, funziona, ci compensiamo a vicenda, ci aiutiamo sempre nei momenti di bisogno e comunque lei è una campionessa, io sto solo cercando di andarle dietro. Questo era dunque il contributo raccolto dopo le prove che hanno portato Tania Cagnotto e Francesca Dall'Apea in finale oggi alle 15.45 dal trampolino dei 3 metri e 5, il contributo raccolto da Dario Ricci, che rimane in collegamento con noi per analizzare anche il successo della pallanuoto femminile. Ieri sera il 7 rosa ha battuto la Cina 11-10. Dario. Sì, grande battaglia nella piscina del Foro Italico, le azzurre però hanno sfoderato la grinta giusta, il cuore giusto, non sono state tatticamente perfette, pagano l'inesperienza di molti, ma di molte delle giocatrici all'esordio in questo mondiale, ma al tempo stesso insomma il risultato è arrivato, e a questo punto ci aspetta la Grecia in una reedizione di quella che era stata la finale olimpica di Atene 2004. Sentiamo il portiere della nostra nazionale femminile, Elena Gigli. È una grande soddisfazione, insomma, dopo aver sofferto siamo arrivate bene alla fine. Tante parate per bloccare questi attaccanti cinesi che veramente non mollavano mai. È un po' a tratti, diciamo, sono partita un po' incerta, però poi per fortuna alla fine ho preso sicurezza e ho dato sicurezza anche alle mie compagne. Adesso la Grecia, come si prepara questa partita alla luce di questo successo importante per la storia di questa squadra? È importante anche per il nostro morale e senz'altro la Grecia è una partita più abbordabile di una con gli Stati Uniti, per cui siamo positive, è un avversario da non sottovalutare e ci prepareremo al meglio. Era Elena Gigli, il portiere della nostra nazionale di pallanuoto femminile, contributo raccolto da Dario Ricci, che ritroveremo domenica con finali attesissime nel programma del nuoto. Buon lavoro ai mondiali di Roma. Dario, a presto. Un saluto a voi. Oggi sono state al volo le dichiarazioni degli inglesi Jackson e Arlington, proprio le avversarie dirette della Pellegrini, tante carezze all'avversaria designata, ma vedrete che in acqua saranno due leonesse durissime da superare. Grazie Dario, buon lavoro a Roma. Grazie Dario Ricci, grazie a Flavio Suardi in redazione, a Peter Bescapè in regia. Torniamo con i mondiali di nuoto e non solo domenica in Tempo di Sport. Grazie a voi per averci seguito e di sentirci su Radio 24 da Massimo Callegari. Grande dentro e compatta fuori è Nissan Note GPL, tua con 4.350 euro di vantaggi inclusa rottamazione. Nissan Note, welcome to simplicity. Vi ha presentato Roma 2009 mondiali di nuoto.